Di minuti si sta andando a dimettere. Le opposizioni chiedono un intervento del Presidente del Consiglio in Parlamento. I 5 Stelle non sappiamo se andremo alle consultazioni. 12 del PD volevano passare con noi. Lievissima crescita del PIL nell'ultimo trimestre dell'anno, più 0,1%, comunque il primo aumento da 9 trimestri. Vanno meglio Francia e Germania, più 0,3% e più 0,4% rispettivamente. Intanto l'Europa dice all'Italia avanti con le riforme e Merkel aggiunge siano rapidi i tempi della crisi italiana. Un generale in Libia annuncia un colpo di Stato e lo scioglimento del Parlamento. Probabilmente è stato solo un tentativo. Da Tripoli dicono situazione sotto controllo. Siglato l'accordo tra l'Italia e i sindacati, scongiurata la cassa integrazione a zero ore, sarà a rotazione, sono previsti anche contratti di solidarietà. La Corte dei Conti, la lotta alla corruzione resta una priorità, si facciano regole chiare, semplici, non ambigue per combatterla. Oggi, i 10 anni dalla morte di Marco Pantani, Gimondi, ho nostalgia, ha ravvivato il ciclismo nell'anima degli italiani, ma avrebbe dovuto chiedere scusa. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti e se volete potete commentarle sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno oppure via SMS al 349-238-6666. Iniziamo dal Quirinale dove sta arrivando Enrico Letta o non so se è già arrivato, lo chiedo a Vincenzo Miglietta che è là davanti. Vincenzo. Sì, buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Enrico Letta è entrato al Quirinale da circa 2 minuti, il Presidente del Consiglio che sta per dimettersi nelle mani del Presidente della Repubblica Napolitano ha scelto un low profile, un basso profilo per venire qui al Quirinale, così come fece ad aprile quando accettò l'incarico, si è presentato con una vettura privata, una Lancia Delta, da solo in macchina. Infatti la stessa sicurezza qui del Quirinale quasi non lo riconosceva, si aspettava evidentemente il classico corteo di auto blu. Questo per dire che da circa 5 minuti quindi a questo punto Letta è a colloquio con Napolitano. Letta è salito qui al Quirinale dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri, una riunione durata pochissimo, più che altro un'occasione per scambiare gli ultimi saluti. Ma cosa succederà, Simone, nelle prossime ore? Il pressing su Letta, lo abbiamo visto, ha avuto l'effetto di anticipare di qualche ora la sua salita al Colle, sarebbe dovuto arrivare alle 16, la palla passa ora al capo dello Stato, sarà lui a gestire i tempi della crisi, è difficile che conceda Napolitano alle opposizioni il passaggio di Letta in Parlamento. Se così non sarà, Napolitano potrebbe iniziare già oggi le consultazioni per poter dare l'incarico nel giro di 2 giorni a Matteo Renzi prima della riapertura, si dice, dei mercati di lunedì, quindi per dare un segnale di ritrovata stabilità. Entro lunedì, secondo indiscrezioni il segretario Renzi del PD dovrebbe quindi accettare l'incarico con la classica formula con riserva, in modo da fare a sua volta un veloce giro tra i partiti e poi presentarsi al Quirinale sempre lunedì per accettare definitivamente l'incarico, poi in settimana il giuramento del nuovo esecutivo. E dal Quirinale è tutto, Simone. Grazie a Vincenzo Miglietta e vedremo quanto durerà questo incontro tra Letta e Napolitano. Di certo all'uscita di chi uscirà, perché ancora non si sa se parleranno Letta, se parlerà Napolitano, se parlerà il segretario generale del Quirinale, naturalmente vi faremo sentire in diretta, qualsiasi trasmissione sia in onda, vi faremo sentire in diretta quello che succede. Tra l'altro Letta ha appena da poco inviato un tweet nel quale dice al Quirinale a rassegnare le dimissioni al capo dello Stato, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, ogni giorno come se fosse l'ultimo, così chiude il tweet di Letta. Veniamo alla nostra Elisabetta Fiorito per fare il punto sull'altra parte, in realtà sull'altra parte del Partito Democratico. Elisabetta. Proprio così, perché Matteo Renzi questa mattina si è congedato. Non abbiamo Elisabetta Fiorito, a quanto pronto? Pare. Ci siamo, sì, ci siamo. Eccoci. Mi sentite? Sì, prego. C'era stato un collegamento sbagliato. Allora, Matteo Renzi intanto si congeda da Firenze in vista dell'incarico probabile che il capo dello Stato dovrebbe affidargli per formare il nuovo governo. Dice: è uno dei momenti più belli degli ultimi 5 anni durante una cerimonia a Palazzo Vecchio. Poi il portavoce Marco Agnoletti precisa: la frase era legata alla festa festa di San Valentino con coppie che si sono sposate a Firenze 50 anni fa. Intanto Simone già impazza il Toto Ministri, secondo i giornali non saranno più di 12 componenti della nuova squadra di governo, ma ci sono 50 nomi in circolazione in queste ore. La lista sarà pronta in 7 giorni, dicono al largo del Nazareno. Angelino Alfano dovrebbe restare vice premier, ma il dicastero dell'interno dovrebbe andare a Graziano Del Rio. La poltrona che scotta di più è quella dell'economia, tra i nomi Lucrezia Reichlin, candidata a vice governatrice alla Bank of England, ma anche Tito Boeri, Fabrizio Barca, Lorenzo Binismaghi, Pier Carlo Padoan. Per il lavoro si parla di Guglielmo Epifanio, di Marianna Madia, alla giustizia Vietti o Flick. Nel frattempo il Parlamento sospende i lavori, Grillo definisce Renzi un carrierista senza scrupoli e paragone la riunione di ieri al PD alla strage di San Valentino del 1929. Sulle consultazioni dice: ci risparmi Napolitano le consultazioni, un'immensa presa in giro, al Colle per Forza Italia, e questa è la vera notizia, salirà Silvio Berlusconi. A te Simone. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Dunque sentiamo due voci dell'opposizione, innanzitutto quella di Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, intervenuto questa mattina ospite di Alessandro Milan a 24 Mattino. Noi chiariremo con un'assemblea del gruppo parlamentare se andremo alle consultazioni, perché lei sa benissimo quali sono i rapporti tra noi e il presidente Napolitano. Non crediamo, soprattutto nell'ultimo anno, gli ultimi due anni, si sia comportato davvero arbitro e garante della Costituzione. Io credo che a giochi già fatti dovremmo riflettere se andare veramente al Quirinale oppure aspettare questo governo e questa maggioranza in Parlamento, se ci fanno la cortesia di venirci. Così Di Maio, e sentiamo anche Renato Brunetta di Forza Italia. Noi chiediamo al Presidente della Repubblica di rinviare il Presidente del Consiglio Enrico Letta in Parlamento per spiegare cosa è successo. Ne ha diritto dovere, nel senso che ha diritto di rivendicare questi suoi 10 mesi di governo. Il Partito Democratico ha il dovere di spiegare al Parlamento del perché toglie la fiducia al suo Presidente del Consiglio. Così Brunetta, e vediamo di ragionare un po' su tutto questo. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno e bentornato anche oggi. Temo che non sarà l'ultima volta che ci sentiremo in diretta, insomma, nei prossimi giorni, naturalmente. Vediamo appunto di fare un punto della situazione. La direzione del PD ieri si è conclusa come peggio non poteva essere per Enrico Letta, naturalmente. Sì, è chiaro che questo governo Renzi nasce tra mille contraddizioni e mille perplessità, proprio per le modalità con cui si è arrivati a sostituire il premier in carica. D'altra parte, a questo punto credo che la cosa più utile per il paese sia voltare pagina e verificare se le ambizioni di Renzi sono fondate oppure se sono soltanto così la premessa di un governo che voglia essere soltanto una facciata in vista di future elezioni anticipate, che peraltro lo stesso Renzi è costretto a escludere perché dice non abbiamo neanche fatto la riforma elettorale, quindi in questo momento non sarebbe proprio tecnicamente possibile andare a votare, e questo fa sì che lui sia a questo punto obbligato a essere all'altezza delle promesse che ha fatto nel suo intervento di ieri, quando dice usciremo dalla palude, e beh, prende un impegno con il paese che non è una cosa da poco. Quindi occorre una squadra di governo di alto profilo, occorre le idee molto chiare su quello che bisogna fare, quando bisogna farlo, e occorre anche che la capacità di lavorare sodo. Io spero che Renzi non sia soltanto una specie di portavoce del suo governo, cioè un uomo che cura soltanto la comunicazione pubblica, ma si renda conto che questo è il momento di rimboccarsi veramente le maniche. Grazie anche per oggi a Stefano Folli. E tutta questa questione, tutta la crisi di governo rischia quasi di farci dimenticare, a noi che sull'isola non ci viviamo, che domenica 16 febbraio, ossia domenica dalle 8 alle 22, 1,5 milioni di elettori ha chiamato ad eleggere il nuovo presidente della Sardegna. non potrò riposare. La Sardegna si appresta a votare. È un voto su cui pesano le gravi crisi industriali, dall'Alcoa al Carbon Sulcis, e un livello di disoccupazione che sfiora il 18%. Il voto dei sardi è dunque un voto arrabbiato, segnato dalle ultime alluvioni in cui i cittadini hanno percepito un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni. La macchina non riesce a uscire dalla macchina, l'acqua mica fortissimo. C'è la potenza dell'acqua, capito? C'è già rovesciato dei mobili, ci abbiamo tutto in giro. A pesare sulla tornata elettorale ci sono anche le inchieste giudiziarie. Tra fondi irregolari e spese pazze è stato chiamato a rispondere quasi mezzo consiglio regionale. La candidata vincente delle primarie, Francesca Barracciu, per queste inchieste non si è candidata e il PD ha chiamato Francesco Pigliaru. Per il centrodestra c'è Ugo Cappellacci, in attesa di processo per un'inchiesta su una presunta corruzione nell'ambito di alcuni appalti per impianti eolici in Sardegna. Si candida con la lista Unidos l'ex PDL Mauro Pili. Ci sono poi Pierfranco Devias, fronte indipendentista Unidu, e Gigi Sanna, Movimento Zona Franca. Il Movimento 5 Stelle, che nelle scorse elezioni ha preso sull'isola più voti di tutti gli altri, ha deciso di non presentarsi. Michela Murgia, scrittrice sarda, punta forse a quei voti presentandosi con la lista Sardegna Possibile. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti, che oggi c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Allora, Alessandra Schepisi, raccontaci un po' che cosa è emerso e che cosa è stato detto. Sì, buongiorno. Il contesto economico è ancora difficile, c'è ancora molto da fare per il rilancio della nostra economia. Questo è il monito della Corte dei Conti, come sempre puntuale in occasione dell'anno giudiziario, un monito che quest'anno cade, come sappiamo, in un momento particolarmente delicato e con una crisi di governo in corso. Il presidente Squitieri ha avvertito che occorre un cambio di rotta radicale nei comportamenti e negli strumenti finora usati. Il momento storico è difficile, è tempo di responsabilità, parole che a questo punto sono destinate al futuro esecutivo. Allora sentiamo questo passaggio del suo intervento. Il 2014 sarà un anno in cui il Paese dovrà dimostrare capacità nuove, saper riformare le proprie istituzioni e le regole, orientare il contributo di tutti al risanamento complessivo. Si tratta di sfide molto impegnative, che impegnano radicali cambi di rotta nei comportamenti e negli strumenti finora impiegati. In questo momento storico così difficile, in questo tempo della responsabilità, l'Italia può contare sulla Corte dei Conti per la tutela dell'unità economica della Repubblica. Il nostro impegno è totale e senza condizioni. In particolare per i magistrati contabili occorre agire sulla lotta alla corruzione con norme chiare e semplici, sulla lotta all'evasione, entrambe condizioni per poi poter procedere al taglio delle tasse, e ancora con più determinazione nella revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, mentre va scongiurata l'eventualità di nuovi interventi di corruzione, di correzione del disavanzo riproduttivi, dice la Corte, di un circolo vizioso che rallenta la ripresa. C'era in prima fila ad ascoltare il Presidente della Repubblica Napolitano, è andato via senza rilasciare dichiarazioni. E non si sono visti esponenti di governo. Ed ormai è tutto. Grazie anche alla nostra Alessandra Schepisi. E visto che siamo dal lato dell'economia, ci siamo spostati al lato dell'economia con l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, continuiamo a parlarne. Ne parliamo perché oggi sono usciti i dati sul prodotto interno lordo dell'Italia e anche di altri paesi europei, importanti da commentare, ma nel frattempo dall'Europa arrivano anche le dichiarazioni anche dei leader europei sulla situazione politica italiana. Dunque, col nostro Sergio Nava, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Facciamo prima un punto su quello che sta uscendo in queste ore, perché ha parlato anche Angela Merkel, e poi andremo sui dati di oggi. Sergio, vai. Sì, Simone, come hai detto, i fari dell'Europa si sono accesi oggi sull'Italia, ovviamente, proprio nel giorno delle dimissioni di Enrico Letta. Sono soprattutto reazioni, diciamolo, attendiste, che fanno trapelare però anche un po' di preoccupazione. La cancelliera tedesca Merkel, attraverso il portavoce Steffen Seipert, ha affermato che Berlino segue con grande attenzione gli sviluppi della situazione politica italiana e auspica una rapida soluzione. La Commissione europea resta invece fiduciosa nella volontà e nella capacità dell'Italia di proseguire con le riforme di consolidamento e guarda anche al lavoro che andrà sviluppato. Ricordiamo che l'Italia da luglio sarà presidente di turno dell'Unione europea, un cambio di governo chiaramente potrebbe anche portare a dei cambi di linea su questo. Ma l'avvertimento forse più chiaro arriva da fonti dell'Eurogruppo: lo spazio di manovra sul bilancio dell'Italia è piuttosto insignificante date le dimensioni del debito pubblico. Ricordiamo pure che nel corso del prossimo mese all'incirca si deciderà a Bruxelles se l'Italia potrà ricorrere o meno alla famosa clausola di flessibilità per gli investimenti, un'eventualità che al momento non sembra però così vicina. Questo appunto dal lato della clausola di flessibilità degli investimenti, collegata naturalmente anche alla situazione economica italiana, sulla quale abbiamo dei dati oggi, insomma, cioè moderatamente positivi. Si esce alla recessione, ma proprio pochissimo, no? Anzi, perché veramente parliamo di un più 0,1%, così dice l'Istat riferito al quarto trimestre del 2013. La buona notizia è che si tratta del primo segno più dopo 9 trimestri consecutivi di segno meno o di mancata crescita per il nostro paese. Allora, nell'anno solare 2013 inoltre il PIL italiano è calato dell'1,9%, anche qui dato negativo, ma possiamo dire leggera ripresa rispetto al 2012, dove il calo era stato del 2,5%. Buone notizie anche da Banca Italia, perché a dicembre il debito pubblico è calato a 2067 miliardi dopo il record toccato a novembre di 2104 miliardi. Più in generale, l'Eurozona ha mostrato qualche timido segnale di miglioramento negli ultimi mesi, perché sia la Germania che la Francia hanno superato, seppur di poco, le aspettative di crescita. La Germania ha fatto registrare nel quarto trimestre 2013 un più 0,4%, la Francia un più 0,3%. E grazie Sergio Nava per questi aggiornamenti. Ci fermiamo, c'è una pausa, come sempre per la viabilità. Ci ritroviamo subito dopo. Molti altri argomenti da toccare, a partire dall'Italia e passando anche per gli esteri, per la Libia. E poi torneremo ad intervistare anche esponenti politici per capire la situazione. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Dopo la sfiducia della direzione del PD, Letta in questi minuti sta incontrando Napolitano per dimettersi. Le opposizioni chiedono un intervento del Presidente del Consiglio in Parlamento. Angela Merkel si augura che i tempi di questa crisi siano rapidi. L'Europa esorta, andate avanti con le riforme. Lievissima crescita del PIL nell'ultimo trimestre dell'anno, più 0,1%, comunque il primo aumento da 9 trimestri. Oggi 10 anni dalla morte di Marco Pantani, tra poco l'intervista a Gimondi. Ho nostalgia, ha ravvivato il ciclismo nell'anima degli italiani, dice tra le altre cose. Veniamo adesso a parlare di Libia, perché c'è stata questa mattina una situazione piuttosto confusa, nel senso che si sono diffuse indiscrezioni e voci a proposito di un colpo di Stato in atto. Noi ci colleghiamo, poi smentite, ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore ed esperto di Libia, che al momento non si trova là ma ha contattato tutte le sue fonti. Che cosa sei riuscito a capire, Alberto? Ma innanzitutto non ci sono problemi in questo momento di ordine pubblico, nel senso che non ci sono né sparatorie né posti di blocco, l'aeroporto funziona, almeno fino a un'ora fa funzionava perfettamente, e insomma questo sembra più un ballon d'essai che un vero colpo di Stato. Che cosa è accaduto? Che un generale, il generale Haftar, ha lasciato delle dichiarazioni a una televisione dicendo di avere una roadmap in 5 punti per sciogliere il Parlamento e riavviare il processo democratico in Libia. In realtà è stato quasi subito dopo, smentito dal ministro della difesa del governo Zidane in carica, che addirittura avrebbe emesso contro di lui un mandato di cattura. Chi è questo generale? Questo generale era un compagno di Gheddafi ai tempi del colpo di Stato del 69, fu poi inviato in Chad, ebbe dissidi con il regime e quindi venne esiliato, si autoesiliò negli Stati Uniti. Adesso pare che sia ritornato dall'estero, ma in realtà questa sceneggiata del colpo di Stato è indicativa della confusione. Alberto, proprio su questo ti volevo sollecitare. È comunque una testimonianza di evidente tensione che continua a circolare nel paese, una tensione che continua ad essere irrisolta. Sì, è una questione irrisolta che ha un punto focale nella questione del Parlamento, cioè questo Parlamento si è autoprolungato alla scadenza che era i primi di febbraio. Dovrebbe esserci nuove elezioni e la formazione anche di un'assemblea costituente per fare la nuova Costituzione. Tutto sembra ancora bloccato e ci sono manifestazioni quasi quotidiane che chiedono da varie parti, da varie correnti politiche, che questo Parlamento si sciolga. Questo è l'impasse che sta vivendo la Libia alla vigilia, tra l'altro, di questa famosa conferenza sulla Libia che si terrà a Roma il 3 marzo, una conferenza internazionale che dovrebbe in qualche modo affrontare i problemi politici enormi che ci sono in questo paese. Grazie Alberto Negri, e mentre descrivevi la parte istituzionale della vicenda, non quella sul terreno, insomma, qualcuno ci avrà riconosciuto anche qualcosina dell'Italia. Stefania Giannini, deputata, segretaria di Scelta Civica, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei. Bentornata ai nostri microfoni. E come la legge questa operazione? Io mi scusi, ma non ho sentito bene la parte... No, ma non si preoccupi, non si preoccupi. Si scherzava perché Alberto Negri descriveva la situazione libica nella quale diceva c'è un Parlamento che si è autoprolungato, eccetera, eccetera. Insomma, si stava giocando, se vogliamo. Vorrei sapere come legge invece non la situazione libica, quella italiana. Quella libica potrei dirle in altro contesto perché me ne sono occupata in certi settori, ma non è questo il momento. Su quella italiana... Non mi pare che ci siano prolungamenti impropri, mi pare che ci sia l'esigenza a questo punto di una chiarezza politica che veda la formazione di una maggioranza che davvero dia al Paese quello di cui c'è bisogno, riforme strutturali, riforme istituzionali e, io l'ho detto in tempi non sospetti, una legislatura costituente, perché finché non si arriva al coraggio e alla visione di fare questo tipo di cambiamento e di non correre ogni giorno per le elezioni del prossimo mese, non si arriverà mai a quel radicale riformismo di cui ha parlato anche Matteo Renzi. Mi scusi Giannini, ma davvero secondo lei questo governo può durare fino al 2018, il governo che nascerà? Ma sa, la salute e la longevità dei governi non dipendono, per fortuna, non me ne voglia, né dai giornalisti né da tutto sommato la fiducia o la sfiducia che in essi si pone e quindi l'ottimismo e il pessimismo del punto di partenza. Dipendono dalla struttura della maggioranza e quindi dal Parlamento, da ciò che in Parlamento avviene e soprattutto dal programma politico che, se è un programma politico chiaro e realmente condiviso, deve portare a quello che in tutti i paesi avanzati e moderni succede, cioè che si inizia una legislatura, si arriva alla fine della legislatura e chi è in carica viene valutato per quello che ha fatto. Certamente il peccato originale di questa legislatura è, ed non saremmo arrivati a quello a cui abbiamo assistito anche nei giorni scorsi, è stato nel fatto che non c'erano condizioni politiche per arrivare a una maggioranza coerente e coesa. Quindi a questo punto io credo che ci sono le condizioni però per fare una scommessa visionaria importante, direi decisiva. Non so dire se ci saranno effettivamente da parte di tutte le forze politiche. Entrerete al governo? Se ci saranno le condizioni che noi abbiamo posto fin dall'inizio della legislatura guidata dal Presidente Letta, cioè contratto di coalizione molto chiaro, puntuale, noi i nostri materiali li avevamo consegnati. Prima il Presidente Monti, successivamente io con l'aggiornamento doveroso a giugno e a ottobre. Purtroppo con questa legislatura non è stato possibile arrivare a un tavolo condiviso sui punti determinanti, programmatici che danno risposta al Paese e che, mi permetta, non sono solo la legge elettorale, perché i problemi che riguardano l'occupazione, la crescita e tutto ciò che va trasformato non si esauriscono nella legge elettorale. Se ci saranno queste condizioni, noi abbiamo già fatto un'apertura di fiducia potenziale. No, perché si fa il suo nome come ministro dell'istruzione, se non sbaglio. Questa, no? È un'altra cosa, non ha a che fare con la posizione del partito. Fanno tanti nomi, guarda, tanti nomi in questi momenti. Quindi è stata contattata, sì, no? No. C'ho poca linea in questo ufficio in cui mi trovo al Senato, ma non credo che sia ripreso da questo. Ah, ok. Senti una cosa, un'ultima domanda le voglio fare. Sì. Molti ascoltatori ci scrivono via SMS. Dice, scusate, ma Renzi non dovrebbe essere eletto prima di governare? E ancora, un altro ascoltatore ci dice, e poi chiamano fascisti quelli dei 5 Stelle. Io le riferisco a quello che scrivono gli ascoltatori, non è un mio pensiero. Ma io credo che ci sia legittimità in queste osservazioni, ma l'ho già detto prima di loro, cioè... Il peccato originale è all'inizio, no? Voglio dire, non essendoci stato, in virtù di una legge elettorale che è stata fatta da forze politiche che non hanno voluto, saputo, potuto trasformarla prima, una maggioranza lineare, no? come avviene nella maggioranza dei paesi avanzati, si è arrivati a un governo di larghe intese che poi si è ristretto, insomma la storia è nota, non sto a ripetere. Quindi il peccato originale è febbraio, non è adesso. Ora si tratta di capire se ci sono le condizioni per trasformare un male in un bene. Io mi auguro che sia così, non per me ma per gli italiani ovviamente. Grazie a Stefania Giannini, deputato e segretario di Scelta Civica. Agli ascoltatori che ci chiedono perché chiamate quelli di Scelta Civica, perché sono determinanti in Senato per la tenuta della maggioranza. Le altre forze rappresentative, immagino che ci si riferisca al Movimento 5 Stelle, li sentiamo spessissimo. Però fatevi dare una ottima notizia. Quarta medaglia per l'Italia a Sochi, anche se è sempre un bronzo. Christoph Innerhofer, dopo l'argento in discesa, conquista il bronzo nella super combinata. L'oro è andato allo svizzero Sandro Viletta, l'argento al croato Ivica Kostelic. Sandra Zampa, deputato del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno e rallegriamoci della buona notizia. Di Innerhofer, non così per l'uscita di Letta dall'esecutivo, almeno secondo la sua idea. Guardi, io non mi rallegro per le modalità con cui tutto questo è avvenuto. Mi sembra che ci sia stata una oggettiva scompostezza nei modi in cui il passaggio da uno all'altro è avvenuto, e mi pare che ieri si sia anche plasticamente visto in quella direzione. Voglio fare notare che ad un certo punto i lettiani, i deputati, diciamo, che fanno, i parlamentari che fanno capo in qualche modo a Letta, se ne sono andati quando hanno capito che si arrivava comunque al voto sul testo che avevamo letto, che era stato distribuito. E d'altra parte io credo che sia non solo giusto ma indispensabile che ognuno si assuma le proprie responsabilità, che ci si conti e che non si vada avanti nell'ipocrisia che ci ha contraddistinto nel passato, per cui eravamo tutti d'accordo e nessuno mai si assumeva la responsabilità di nulla, quindi ora si sanno i nomi e i cognomi di chi ha votato sì e di chi ha votato no. Ma dico, si vedeva anche dal fatto che non c'è stato mai neppure il coraggio di fare un applauso, quando pure ci sono stati interventi che hanno riconosciuto a Enrico Letta la fatica, lo sforzo, l'impegno, il valore del suo Zampa, impegno. Zampa trattato quasi peggio di Prodi, dice lei, con il voto per la presidenza della Repubblica. Beh, lasciava credo abbastanza attoniti anche per la velocità e per la rapidità con cui tutto questo è avvenuto. Il paragone con Prodi però è un paragone improprio. Io concordo con Parisi, che lo ha fatto notare. Prodi era stato eletto. Era un governo eletto. No, mi scusi Zampa, non sto parlando del passaggio, diciamo, del passaggio parlamentare, del passaggio famoso da Prodi a D'Alema. Dico, sempre quelli sono, diciamo, sempre questo Parlamento è. Infatti questa è un'altra delle cose che mi piace sottolineare, perché siccome ora è tornato fuori questa singolare questione che con questo passaggio probabilmente assisteremo presto a un cambio di nuovo anche al Colle, che si riapre la partita del Quirinale. Io faccio presto molto... dice lei, quanto presto? No, io non dico presto, noto che molti sostengono che presto avverrà, che comunque si riaprono i giochi. Ecco, io faccio notare che questo Parlamento sempre quello è. E che quei 120 sempre lì sono, e che potrebbero anche diventare 200 e anche forse anche 220. Aggiungo anche che il presidente Prodi non ne vuole veramente più sapere, mi sembra che l'abbia spiegato in un modo così chiaro che non c'è bisogno di aggiungere altro. Lei dice è stata una modalità un po' da bulletti, diciamo. Beh, io credo che ci sia stata, io credo che fosse necessario davvero cambiare, e credo che sia giusto e doveroso dire che Enrico Letta ha commesso molti errori e che la quantità più grande di errori che sono stati commessi sono stati commessi nella parte finale, quando ormai era chiaro che Renzi pretendeva e che molti attendevano da lui un cambio non solo di passo ma una ripartenza, e che perciò si doveva dare almeno un nuovo assetto al governo. Sì. Io però, siccome ho sostenuto Pippo Civati e siccome non ho mai creduto nella formula delle larghe intese, aggiungo anche che secondo me quel governo è nato con un equivoco che non si è mai chiarito, tant'è che alla fine persino noi, perché anch'io sono una giornalista, siamo stati costretti a usare un aggettivo che è strano, cioè il governo è stato di volta in volta un governo politico, poi era un governo tecnico, poi è stato un governo di servizio, poi è diventato un governo strano. Quando si è costretti a chiamare un governo strano, vuol dire che è finito. Allora Zampa, io la devo interrompere perché adesso dobbiamo chiudere, andare a sentire che cosa succede sui mercati, perché anche questo è un occhio che naturalmente dobbiamo tenere in questo momento. La ringrazio e le auguro buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Appunto, è il momento di una pausa e poi la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Enrico Letta è ancora a colloquio col Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per le dimissioni. E naturalmente appena avremo notizie e informazioni ve le daremo. Nel frattempo arrivano due dichiarazioni, una del Movimento 5 Stelle, che non è in realtà una dichiarazione ma il voto dell'Assemblea dei Deputati del Movimento, che ha deciso di non partecipare alle consultazioni che verranno indette al Presidente della Repubblica. Mentre parla anche il Presidente della Lombardia, Roberto Maroni, dice: questa volta sono d'accordo con Grillo, queste consultazioni sono inutili e fossi il segretario della Lega non andrei al Quirinale. Un'altra notizia di poco fa, ve la ribadiamo, è la quarta medaglia per l'Italia a Sochi. Christoph Hinerhofer, dopo l'argento in discesa, ha conquistato il bronzo nella super combinata. Lievissima crescita del PIL nell'ultimo trimestre dell'anno, più 0,1%, comunque il primo aumento da 9 trimestri. È stato siglato l'accordo tra Italia e sindacati, ne parleremo tra poco. Scongiurata la cassa integrazione a zero ore, sarà a rotazione. Sono previsti anche contratti di solidarietà. È il momento della borsa. Borse in diretta. Con un po' di ritardo, Isabella Tasso di Radio Corriere Sole 24 Ore, che è con noi al telefono come sempre, ci scuserà. Buongiorno Isabella. Buongiorno. Ma la giornata, insomma, è quello che è da questo punto di vista. È invece ottima dal punto di vista delle borse. FTSE MIB più 1,72%, più 1,62% sul FTSE All Share. Fanno un po' peggio le altre piazze finanziarie europee: Francoforte più 0,62%, Parigi più 0,43%, Londra più 0,16%. Allora Isabella, quanto gioca il dato sul PIL in tutto questo? Sicuramente il dato che ha fornito un sostegno a tutti i listini europei sin da questa mattina. Le borse festeggiano appunto il ritorno alla crescita per l'Italia, più 0,1% nel quarto trimestre dopo 9 trimestri di recessione. Bene anche i risultati di Francia e Germania, che hanno fatto rispettivamente più 0,4% e più 0,3%, e spingono l'economia di tutta l'Eurozona. Questo a livello generale. Andiamo a vedere sui singoli titoli. Che cosa c'è da segnalare oggi? Piazza Affari va molto bene. Finmeccanica fa più 3,9% sulle ipotesi di riassetto delle controllate, che dovrebbe vedere una quota di minoranza di Ansaldo STS passare nell'orbita della Cassa Depositi e Prestiti. Ansaldo STS fa meno 3,8%. Rialzi per tutte le principali banche. Prosegue il rally del Banco Popolare, che guadagna il 2,6%, Unicredit fa più 2,4%, bene anche gli industriali, Fiat più 2,5%, CNH Industrial più 2,9%, Pirelli più 1,9%. In coda listino ancora una volta invece i titoli del lusso e dell'energia. Luxottica, ancora da segnalare, fa meno 0,2% e sconta le preoccupazioni degli operatori per un possibile passaggio in politica al Ministero dello Sviluppo Economico dell'amministratore delegato Andrea Guerra. Grazie anche per oggi a Isabella Tasso di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci naturalmente con la politica in primo piano, ma molti altri argomenti, a partire dall'Italia, perché è stato raggiunto l'accordo tra l'azienda e i sindacati. L'intesa è stata trovata dopo ore, firmata dall'azienda e dai sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL. Il documento sulla carta riguarda 1900 dipendenti. Nei fatti, nel perimetro rientrano tutti, perché nell'accordo firmato all'alba sono stati trasferiti anche i precedenti. Scongiurata la cassa integrazione a zero ore, tutti restano all'interno del ciclo produttivo. Per il personale di terra la cassa sarà a rotazione. In alcuni settori, più interessati dalla ristrutturazione, sarà piuttosto pesante, arrivando fino a 13 giorni. Per compensare sono stati previsti piani di formazione e riqualificazione. Al personale navigante, invece, verranno applicati i contratti di solidarietà. Considerando che solo qualche settimana fa sono stati richiamati in tutta fretta alcuni dipendenti in cassa per mancanza di personale sui voli, potremmo leggerlo come un tentativo di mettere ordine in tutti gli accordi sul personale che si sono sovrapposti negli anni. Dunque, ora che la partita sindacale è stata risolta, i colloqui tra l'Italia e Etihad possono accelerare. Sul tavolo un'ipotesi di investimento tra i 300 e i 350 milioni per una quota al di sotto del 50%, evitando così i limiti che l'Europa pone agli operatori stranieri sulle rotte internazionali. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso noi ritorniamo sulla legge Fini-Giovanardi. A questa oggi è dedicata all'inchiesta di Daniele Biacchessi. Fino a poche ore fa la legge Fini-Giovanardi del 2006 sul piano penale equiparava droghe pesanti a quelle leggere. La normativa prevedeva per lo spaccio di hashish la reclusione da 6 a 20 anni e una multa compresa dai 26.000 e 260.000 euro. Dopo la bocciatura della Corte Costituzionale, quella legge sembra ormai retaggio del passato. Ora si dovrebbe tornare ancora più indietro nel tempo. Con l'entrata in vigore della legge Iervolino-Vassalli, la cosiddetta 162/1990. Che cosa potrà accadere? Veniamo alla elaborazione degli ultimi dati aggiornati in nostro possesso. Il rapporto dell'ONU assegna all'Italia la palma di paese leader in Europa per consumo di cannabis. Il 14,6% dei cittadini tra i 15 e i 65 anni, moltissimi di loro sono minorenni. 64.323 sono i detenuti reclusi, compresi nel totale dei detenuti anche quelli in semilibertà nei 205 istituti di pena italiani. Nel 2006, nell'anno cioè dell'introduzione della Fini-Giovanardi, si è passati da 15.000 agli attuali 23.094 detenuti per reati relativi ad uso e spaccio di sostanze stupefacenti, pesanti e leggere. Di questi 14.378 sono condannati in modo definitivo, mentre 8.657 sono in custodia cautelare e 59 gli internati. Almeno 9-10.000 si calcola potrebbero beneficiare della bocciatura della legge. Tra questi non solo chi è in custodia cautelare, ma anche i condannati in via definitiva, che potrebbero dunque chiedere un incidente di esecuzione per la rideterminazione della pena. L'impatto di uno stop alla Fini-Giovanardi sarebbe notevole anche sul piano processuale. In molti procedimenti scatterebbe la prescrizione, dato l'abbassamento delle pene. Non sarebbe più possibile fare uso di alcuni strumenti di indagine, come le intercettazioni, e le condanne sarebbero più basse, anche nel caso di continuazioni con altri reati. E sono stati appena diffusi, a proposito di queste vicende, i dati del Consiglio dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche proprio a proposito del consumo di droghe. Ebbene, circa 22 milioni e mezzo di europei e 3 milioni e mezzo di italiani hanno fatto uso di cannabis nell'ultimo anno, mentre i consumatori di cocaina sono 4 milioni in Europa e 520.000 in Italia. Aumenta l'uso di psicofarmaci, dilaga il gioco d'azzardo, la cannabis resta subito dopo l'alcol, la sostanza psicoattiva più diffusa in Italia e in Europa. E adesso veniamo ad un'altra vicenda che è collegata anche, purtroppo, al consumo di droga, perché 10 anni fa, il 14 febbraio del 2004, moriva Marco Pantani, il corridore più popolare del ciclismo italiano, uno dei più popolari sicuramente. Morì, lo ricorderete, per overdose di cocaina, venne trovato senza vita in un residence di Rimini. Oggi sulla sua figura, come sapete, abbiamo dedicato una serie di appuntamenti a tutto questo, poi domenica alle 8:15 ci sarà un reportage dedicato, di tutto questo torneremo a parlare naturalmente in tutti i convocati. Oggi Dario Ceccarelli ha intervistato Felice Gimondi, suo ex presidente alla Mercatone 1. Marco Pantani, un simbolo che ha fatto la storia del ciclismo ma anche la storia d'Italia, qual è il tuo primo ricordo? Il mio primo ricordo è tanta nostalgia, perché uno non può morire a 33-34 anni quando va avanti e ancora tutta una vita. Ricordo bello che lui ha ravvivato nell'anima degli italiani il ciclismo vero, insomma. Direi che ha coinvolto direttamente anche noi addetti ai lavori e noi che abbiamo fatto di mestiere quel lavoro lì. Quindi questi sono il ricordo più bello di Marco. Senti, Pantani è stato, si dice appunto, un dio, un angelo, ma è stato anche un po' un demone, almeno dopo quello che è successo a Madonna di Campiglia. Tu che idea te ne sei fatto? Che idea, cosa vuoi fare? Quel periodo lì si viaggiava un po' così, non dimentichiamo che anche altri erano vicini, insomma, per mezzo punto, un punto di differenza, quindi il segno che ha lasciato, punto e basta. Ma non poteva anche lui dire, sì, ho sbagliato, ho fatto questo, come hanno fatto tanti altri, e ripartire da capo? Doveva, perché io mi ricordo Eddie, positivo, e doveva star fermo 30 giorni, chiede la deroga per ripartire un tour, che poi indossò la maglia gialla il primo giorno fino all'ultimo, perché lui doveva star fermo fino dopo il prologo, ha capito? Quindi non avrebbe neanche potuto partecipare al tour. Marco doveva fare la stessa cosa, la cosa più bella che Marco poteva fare era il giorno dopo Madonna di Campiglio prendere la bicicletta e affrontare apertamente tutto. Il pubblico sicuramente avrebbero capito. Purtroppo non è stato così, si è incupito, si è rattristato, si è chiuso secondo me un po' dentro di lui e poi il resto lo sanno tutti, insomma. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Allora, saluto subito il nostro Vincenzo Miglietta, che si trova al Quirinale. È finito l'incontro, Vincenzo? Sì, l'incontro è terminato. Letta ha lasciato il palazzo a bordo della sua vettura, così come era arrivato poco prima delle 13. Non c'è ancora l'ufficialità che Letta si sia dimesso, ma era nelle cose. E siamo qui nel piazzale antistante il Palazzo del Quirinale e non sappiamo neanche quali saranno i prossimi tempi, Simone, della crisi, se il Presidente della Repubblica Napolitano deciderà di rimandare Letta alle Camere per un passaggio parlamentare come chiedono le opposizioni, oppure se accelererà i tempi della crisi iniziando le consultazioni sin da oggi per arrivare poi ad un incarico a Renzi nel fine settimana. Allora Vincenzo, resta un attimo con noi perché oggi, proprio per questi motivi, è una puntata speciale e non andrà in onda, ce ne scusiamo, America 24, di Mario Platero. Saluto Matteo Salvini, segretario della Lega. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Allora, poco fa il suo predecessore Roberto Maroni ha detto: insomma, se io fossi il segretario della Lega non andrei al Quirinale a fare le consultazioni. Lei che cosa dice? Beh, ha ragione, è tutta una manfrina interna al Partito Democratico, se la cantano e se la suonano, Napolitano, Letta, Renzi e gli altri fanno da contorno come le palline sull'albero di Natale, decidono tutto loro, la direzione del PD diventa sostanzialmente quella che decide i destini del paese, almeno non ci prendano in giro, i soliti vecchi riti romani possono svolgerseli fra di loro, domani peraltro noi abbiamo iniziative a difesa del lavoro e contro l'immigrazione incontrollata in 50 città del nord, quindi avremo il nostro da fare da Milano a Pavia senza passare da Roma. E quindi, in sostanza, al Quirinale non ci andrete, lei non ci andrà, non ci andranno i capigruppo. Vediamo se, come, quando e per fare che cosa. Se dobbiamo andarci per farci raccontare che cosa ha deciso di fare il PD, l'abbiamo letto sui giornali. Cioè, io ascolto Radio 24 e sono più aggiornato di quanto non mi possano raccontare Renzi e Napolitano. Altro paio di maniche da segretario della Lega sarà andare a incontrare Renzi per portargli le proposte che noi vediamo come utili per il paese, dall'uscita dall'euro al Ministero dell'Agricoltura da non rinnovare e da lasciare come competenze alle regioni, all'abolizione della riforma Fornero. Quindi sul tema concreto noi ci saremo, però i riti di qualcosa che è già stato deciso in altre stanze non ci interessano più di tanto. Senta, e quindi il dialogo con Renzi tutto sommato si può aprire, no? No, si deve aprire, io sono pagato per risolvere dei problemi, non per dire sì o no a priori. Ripeto, faccio un esempio molto concreto che riguarda il lavoro e l'emergenza. Ci sono 160 crisi aziendali aperte sul tavolo dell'ex ministro dello sviluppo economico. In Lombardia ci sono i 400 lavoratori della Franco Tosi di Legnano, quelli della Electrolux di Solaro, quelli della Invernizzi, insomma ci sono tante crisi aziendali. Io di quello voglio andare a parlare con Renzi per capire cosa fare subito, domani, dopodomani, non fra 6 mesi, perché questa è un'emergenza. Quindi non faccio alla Grillo, dice no a priori, il mio dovere è sporcarmi le mani e risolvere i problemi. Ho qualche dubbio che Renzi lo faccia, visto come è partito, che è l'esatto contrario di quello che aveva detto fino a 3 giorni fa. Sento una cosa, e dal lato delle riforme si può dialogare oppure no? Adesso lasciamo stare la legge elettorale, ci si tornerà sicuramente, bisogna vedere come andrà a finire, però ci sono una serie di altri elementi come la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie, la revisione del titolo quinto della Costituzione dopo il pasticcio fatto con la riforma del centrosinistra. Da questo lato che cosa vede? No, no, è nostro dovere dialogare sulle riforme, basta intendersi su qual è la direzione. Se Renzi vuole riaccentrare tutto quanto, non ci siamo. Se invece vuole completare un percorso federale interrotto a metà, riconoscendo responsabilità e autonomia alle regioni e permettendo ai comuni di spendere i soldi che hanno in cassa, ebbene questo invece è un tipo di riforma che ci interessa. Il Senato federale è qualcosa che la Lega ha approvato 8 anni fa in Parlamento e fu poi bocciato a referendum, quindi se si vuole chiudere il Senato che oggi conosciamo per trasformarlo in un Senato federale, con noi Renzi risponderebbe una porta aperta. Il dubbio è che invece la voglia sia quella di riaccentrare tutto quanto a Roma e a Bruxelles. Se così fosse daremmo battaglia, evidentemente. Grazie a Matteo Salvini, segretario della Lega, per essere tornato ai nostri microfoni. Vincenzo Miglietta è ancora con noi, no? Vincenzo, ci sei? Sono qui. Ci sono aggiornamenti, mi sembra che le agenzie stiano battendo. Adesso ci arriva la notizia che Letta si è ufficialmente dimesso. La prendiamo attraverso fonti qui del Quirinale. So che la stanno battendo anche le agenzie. Quindi pochi minuti dopo, saranno passati 5 minuti che Letta ha lasciato qui il Quirinale, l'ufficialità delle sue dimissioni. Simone? Sì, questo il quadro quindi dal punto di vista istituzionale. Altre fonti stanno circolando in queste ore, naturalmente, il nostro Vincenzo Miglietta non è che può essere dappertutto, però insomma circolano voci che le consultazioni dovrebbero iniziare già questo pomeriggio e quindi vedremo da questo lato che cosa succederà. Io vi voglio aggiornare anche su altre dichiarazioni che stanno arrivando. Sono quelle innanzitutto del segretario generale della CGIL Susanna Camusso, che dice: il paese ha bisogno di discontinuità, non solo di un cambio di chi dirige il governo, quindi come dire non un'apertura di credito a Renzi, del resto probabilmente era anche prevedibile da questo punto di vista. A proposito di Matteo Renzi, naturalmente lui almeno al momento resta ancora sindaco di Firenze, e come hanno preso tutta questa vicenda i fiorentini ce lo racconta proprio da Firenze Ubaldo Cianciulli. Oltre 10.000 commenti sul profilo Facebook di Renzi, e fra qualche timido in bocca al lupo le invettive e gli insulti si sprecano anche da chi si definisce renziano. I sentimenti prevalenti sono quelli di tradimento e di vergogna, ma ascoltiamo alcuni cittadini. Il ragazzo gioca bene. Ma gioca bene, ma si aspettava sta partita? Sì, è ambizioso. Ma è come giocatore di calcio, la maglia non c'è, non esiste più. Speriamo solo su Renzi, c'è rimasto che lui. Ma se lo aspettava? No, speravo di no, però speravo che si arrivasse prima a fare delle riforme e poi dopo cominciare davvero a fare qualcosa di più concreto. Un elemento giovane, gli anziani devono stare in pensione, devono fare il pensionato. Guardi che Renzi è molto, è già un po' che piano piano sale, non è una sorpresa per me, eh? E soprattutto è un elemento che può cambiare anche quello che è il vecchiume della politica italiana. Il sindaco di Firenze fa il suo, cioè andare a Roma, piazza, ha preso la poltrona e è bella a posto. Noi fiorentini ci deve arrangiare. Ma come sindaco lo vedo bene, come politico mi sembra che sia troppo ambizioso. Insomma, anche se fra luce e ombre i fiorentini hanno capito che la volontà di Renzi di fare soltanto il sindaco di Firenze, definito da lui stesso il più bel mestiere del mondo, è già storia passata ed è durata il tempo di un tweet o poco più, ma si sa che le parole, soprattutto in politica, le porta via il vento. Ubaldo Cianciulli, Radio 24, il Sole 24 Ore, Firenze. Ecco qua, dunque, stanno arrivando, intanto continuano ad arrivare notizie dal Quirinale. Le consultazioni inizieranno oggi pomeriggio e si concluderanno nella giornata di domani, questo lo rende noto il Quirinale. C'è anche una dichiarazione, da quel che leggiamo dalle agenzie, del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dopo aver ricevuto appunto le dimissioni del Presidente del Consiglio Enrico Letta. Allora, innanzitutto Napolitano dice che le consultazioni avverranno nel più breve tempo possibile, come è insomma perfettamente normale che dicesse. Ebbene, dice Napolitano, il Parlamento potrà comunque esprimersi sulle origini e le motivazioni della crisi allorché sarà chiamato a dare la fiducia al nuovo governo. Queste parole del Presidente della Repubblica fanno abbastanza chiaramente intendere, poi vedremo se saranno confermate oppure no, che non ci sarà bisogno, no, almeno il Presidente non ritiene un passaggio necessario, il passaggio parlamentare di Enrico Letta, che era la richiesta, come abbiamo sentito prima dalle voci di Maio del Movimento 5 Stelle e dalla voce di Renato Brunetta di Forza Italia, era la richiesta delle opposizioni. Le opposizioni chiedevano che su tutto questo non si passasse solamente dalla direzione del Partito Democratico, ma ci fosse un passaggio parlamentare. Ebbene, queste parole che leggiamo al volo adesso di Napolitano sembrano configurare l'ipotesi di non di un passaggio parlamentare, ma di una discussione solo nel momento nel quale verrà data la fiducia al nuovo esecutivo. Si chiude qua Effetto Giorno e naturalmente vi aggiorneremo nel corso della giornata su tutte le notizie che avremo quando in merito alla situazione politica e alla crisi di governo. Chiudiamo qua intanto, ci risentiamo tra un attimo col giornale radio con la trasmissione lunedì alle 13. Ringraziamenti Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno.